i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Passo dopo passo. Bill Withers dalla segregazione al successo, di Pier Francesco Sampaolo. Può un artista trovare la forza di crescere come tale sotto le armi? Beh, parrebbe proprio di sì. È il caso di Bill Withers al secolo William Harrison Withers Jr., celebre cantautore e musicista americano che ha servito nella US Navy dal 1956 al 1965, arruolandosi a soli 17 anni. Ultimo di sei figli, Bill nacque a Slab Fork, una piccola cittadina del West Virginia, nel 1938, da una famiglia molto umile. Non passò un'infanzia facile, sia per le privazioni della guerra negli anni 40, sia per la sua condizione di afroamericano in uno stato del sud degli Stati Uniti. Infatti, crebbe in pieno clima di segregazione, in un contesto dove le persone di colore erano sempre un passo indietro rispetto agli altri, sia nei diritti civili, sia come opportunità di affermazione. Questa condizione lo segnò profondamente e lo accompagnerà per tutta la sua vita, anche se, a differenza di altri, Bill prenderà una strada diversa per emanciparsi. Nel 1948 il presidente Truman eliminò la segregazione per le forze armate, così nel 1956, ancora 17enne, decise di arruolarsi nella US Navy, anche per sfuggire dalle dinamiche di un piccolo centro come Slab Fork. Come dichiarerà in un'intervista al Rolling Stone, non voleva essere impiegato come cuoco o sguattero, confermando così il pregiudizio ancora presente che voleva gli afroamericani in uniforme relegati ai ruoli più umili perché stupidi e geneticamente inferiori. Così decise di intraprendere gli studi come meccanico per i velivoli, diventando in poco tempo un elemento brillante e un ottimo professionista. Numerose testimonianze dei suoi commilitoni raccontano Bill come un uomo risoluto e gentile, con grande senso del dovere e umanità. Raccontano anche di come, nel corso del suo lungo periodo di servizio, abbia sviluppato passo dopo passo la sua passione per la musica e la scrittura, maturando proprio in quegli anni la decisione di farne una carriera. E dire che non era cosa facile, anche perché sin da bambino aveva una forte forma di balbuzie, cosa che superò con coraggio e determinazione proprio sotto le armi. In uniforme scrisse i suoi primi brani e cantò le sue prime canzoni, con i suoi colleghi e amici come pubblico. Ancora non erano i tempi di Ain't No Sunshine o Lean On Me, ma il suo talento cresceva proprio sotto la divisa della US Navy. Quando nel 1965 si congedò con onore, si trasferì a Los Angeles per cercare di intraprendere la carriera di artista. I primi anni furono difficili, ma la sua esperienza militare, anche qui, gli venne incontro. Infatti, grazie alla sua specializzazione, trovò lavoro in una fabbrica di parti di ricambio per aerei, lavoro che gli consentì di sopravvivere fino al suo primo contratto con la Sussex Records nel 1971. Ma i problemi legati al razzismo tornano a farsi vivi. Diverse incomprensioni e screzi con la Sussex, specie per il trattamento di serie B a lui riservato, lo portarono a sciogliere il contratto. Anche con la Columbia, con la quale firmerà successivamente, ebbe delle tensioni per gli stessi motivi, nonostante nel 1972 vincesse già il suo primo Grammy Award. Sempre al Rolling Stone, Bill dichiarerà che la sua esperienza in divisa lo aiutò moltissimo nell'affrontare queste difficoltà, sia come uomo, sia come artista. La sua condizione di militare era un qualcosa che l'avrebbe accompagnato per tutta la vita. C'è una canzone non molto nota di Bill Withers che si chiama I Can't Write Left-Handed. Parla di un soldato che ha perso il braccio destro in battaglia. Così chiede di essere aiutato per scrivere una lettera a sua madre per sapere come sta. Non si lamenta, poteva andargli peggio. Era uno di quei ragazzi che sono partiti quando qualcuno gliel'ha chiesto, senza fare domande. Molti scrivono canzoni su guerre, governi e questioni sociali, dice Bill nella canzone, ma io penso a quel ragazzo che sembrava me quando ero giovane. Questo era Bill. Ebbe una carriera folgorante, divenendo uno dei cantautori più famosi al mondo a cui migliaia di artisti ancora oggi si ispirano. vinse 3 Grammy Award e fu inserito sia nella Songwriters Hall of Fame sia nella Rock and Roll Hall of Fame. Dopo la sua morte, avvenuta nel marzo del 2020 per complicanze cardiache, lo United States Navy Memorial gli conferì il Lone Sailor Award, un'onorificenza concessa ai militari che si sono distinti durante e dopo il servizio. L'ammiraglio Frank Thorpe, presidente del Navy Memorial, dichiarerà: Bill Withers rappresenta tutti gli uomini e le donne che durante il servizio hanno avuto modo di sviluppare il loro carattere e i loro talenti, riportandoli anche nella vita che hanno affrontato dopo. Withers ha letteralmente toccato le vite di ogni americano negli ultimi 50 anni e attraverso la sua musica e il suo esempio ha reso il mondo un posto migliore. Da Slab Fork al Navy Memorial la strada è stata lunga, ma ciò che ci ha restituito si chiama Bill Withers. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.